Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, non se ne può davvero più di sentire in TV e alla radio concatenazioni sempre più lunghe e ardite di piuttosto che quello, piuttosto che questo, piuttosto che quell'altro, per dire semplicemente quello o questo o quell'altro. Come ci spiega l'Accademia della Crusca, l'espressione piuttosto che non può essere usata in nessun caso in luogo della disgiuntiva o, poiché implicando una scelta e conseguentemente un'esclusione, indica esattamente il suo contrario. Al ristorante, per esempio, prendere la frutta piuttosto che il dolce significa scegliere la prima ed escludere il secondo. Eppure, l'esercito di coloro che per ignoranza o per uno stupido vezzo continuano ad adoperarla impropriamente, ahimè, aumenta sempre di più. La sciagurata abitudine, nata pare intorno agli anni Ottanta in certi ambienti un po' snob del Nord Italia, si è purtroppo affermata velocemente su vasta scala, spontaneamente intercettata dai media. Il linguaggio è principalmente una norma, non dimentichiamolo. E una norma trae la forza dalla circostanza di essere condivisa da tutti i parlanti di quella determinata lingua. Al contempo, non bisogna credere che sia un sistema immutabile, poiché esso si evolve nel tempo per meglio significare quel mondo di cui è segno. Ma ciò non significa che ognuno possa fare di testa sua, poiché la principale funzione del linguaggio rimane quella di comunicare significati, cioè di capirsi. E in radio, molto più che altrove, questo è fondamentale. Non crede? Gianluigi. Gentile Gianluigi, la sua potrebbe sembrare un'osservazione marginale. Con tutti i problemi che abbiamo, dobbiamo proprio fermarci a criticare quella che potrebbe essere considerata una normale evoluzione del linguaggio? Ci sono forme e modi di dire scorretti o pleonastici che prendono piede, si insinuano nei nostri discorsi, diventano modi naturali di esprimersi. Anni fa non c'era intervento che non contenesse un a misura di. Poi è arrivato l'assolutamente, per non parlare dei cioè e dei diciamo. Lei punta il dito sul piuttosto che. E mi sento di darle ragione, ma soprattutto perché chi parla ha il dovere di farsi capire, senza lasciare spazio a equivoci o fraintendimenti. Piuttosto che va quindi usato per esprimere un'alternativa e non una scelta ugualmente possibile. Anche per affrontare i grandi problemi è importante quindi farsi capire. Siamo al ridicolo. L'Unione Europea dichiara guerra alla Nutella. Questa Unione Europea se la possono tenere, visto che non cura affatto gli interessi delle famiglie e delle aziende italiane. Sarà anche una colpa della casta politica italiana, assolutamente silenziosa su questo argomento. Ma se gli interessi italiani non difendono i parlamentari italiani in seno all'Unione Europea, chi altri lo dovrebbe fare? E se la casta politica italiana non vuole più difendere il Made in Italy, spero che almeno la Lega voglia difendere il Made in Padania. Gustavo. Perché tanto astio contro queste famigerate vuvuzelas da parte dei fruitori televisivi di questo mondiale? In fondo siamo ospiti di questo straordinario paese che ha, tra le sue caratteristiche, quello di partecipare alla gara non con cori beceri, offensivi e razzisti, ma con il suono di uno strumento che, per quanto fastidioso, alle mie orecchie suona molto meglio di tanti cori dei nostri pseudo-tifosi. Se questo suono non ci piace, possiamo cambiare canale, possiamo abbassare l'audio. Ma mi sembra un po' arrogante lamentarsi di continuo. Nicola. In questi giorni si fa un gran parlare della FIOM e del caso Pomigliano, di costituzionalità o meno degli accordi, eccetera. Vorrei ricordare a titolo di esempio che in Italia vi sono alcune categorie di lavoratori, e una di queste è la mia, sono marittimo su una petroliera, che le feste e le santificazioni varie se le scordano, senza peraltro che nessuno dei sindacati si prenda a cuore la nostra categoria. Per noi lavoratori che abbiamo bisogno di lavorare e di tirare avanti una famiglia, l'importante, prima di ogni altra cosa, è il lavoro, al di là dei sacrifici vari quali la lontananza dalla famiglia per lungo tempo, i fusi orari che variano in continuazione o gli eventi climatici avversi. Se non c'è lavoro, c'è miseria, povertà. I sindacati italiani mi sembra abbiano dimenticato una cosa importante, vale a dire che il tempo passa e non siamo più negli anni 60. Loro si cullano ancora in un sogno che è ormai tramontato, vale a dire l'umanizzazione del lavoro. Siamo nell'era della globalizzazione, dell'economia sovranazionale, delle leggi di mercato, delle delocalizzazioni. I sindacati tedeschi e anche quelli inglesi hanno fatto concessioni importanti pur di evitare delocalizzazioni che finiscono poi per alimentare il mercato dei disoccupati. In Brasile, pur di far lavorare la gente, lo stato di Belo Horizonte e Minas Gerais offrono terreno e capannoni industriali ad aziende che vogliono investire in Brasile. Certo, l'immobilismo in alcune situazioni può far comodo, ma così si manda a ramengo l'Italia. Carlo. Sfogliando distrattamente il quotidiano della mia città, mi è caduto l'occhio su un articolo dove, evidenziato in giallo, l'autore mostrava tutto ciò che non potrà più pubblicare dopo la legge bavaglio sulle intercettazioni. Sfoglio il resto del giornale e vedo che si tratta sì e no del 5% del totale pubblicato. Sempre lo stesso giorno ho visto Studio Aperto con i suoi servizi su veline svestite, pietanze malcotte e notizie di varia inutilità. A quel punto mi è venuto in mente il fronte compatto di tutti i giornalisti ed editori che si oppongono alla legge sulle intercettazioni. Ma questa legge sarebbe davvero un danno? Cambierebbe davvero qualcosa in un panorama tanto imbarazzante? Perché non c'è un fronte altrettanto compatto contro lustrini, piattini e le altre futilità che affollano i nostri telegiornali? Luigi. Perché la sinistra, di Di Pietro e soprattutto Fini, quando c'è qualcosa che a loro non va, parlano di attentato alla democrazia, mancanza di rispetto della volontà popolare e quant'altro? Non sono forse loro i primi attentatori di quanto dicono di voler difendere, visto che non rispettano per niente quanto espresso da gente che non la pensa come loro? Stefano. Credo che se la British Petroleum decidesse di rinunciare al pozzo, o meglio se avesse deciso di rinunciarvi subito dopo il primo fallimento, il disastro ecologico che ormai è in atto sarebbe stato evitato. Per rinuncia intendo dire che se avessero fatto collassare il pozzo su se stesso bombardandolo, come fecero i russi a loro tempo, non ci sarebbe più fuoriuscita di petrolio da un pezzo, solo che avrebbero dovuto rinunciare ovviamente al pozzo e quindi al petrolio. Purtroppo la faccenda BP non fa altro che confermare che al mondo non esiste economia se non quella dettata dal petrolio e da chi lo possiede. Un'azienda che non si occupa nemmeno della cifra dei risarcimenti e dei capitali utilizzati per la bonifica fa paura. Quindi viva il disastro ecologico! Finché ci saranno disastri, ci sarà vita, ma solo per i soliti pochi. L'uomo più potente del mondo poi si è dimostrato davvero piccolo nonostante i toni usati, e questo forse fa ancora più paura. Davide. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.